Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Primo appuntamento del mese di novembre anche con il mondo della scuola. Ben ritrovato al preside, dirigente scolastico dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso, Francesco Contessotto. Bentornato. Grazie. Dunque, con te facciamo un discorso ampio. Non abbiamo un po' un tema libero oggi, ce lo siamo dato perché vale la pena allargare il discorso. Sa che il tema libero è il più difficile. È il più difficile, ma insomma speriamo di essere propositivi e stimolanti nella discussione anche per chi ci ascolta. Parto dal tema che ha affrontato questa settimana il direttore Marco Tarquinio di Avvenire nell'ambito della settimana sociale dei cattolici trevigiani. Ha parlato del ruolo dei cattolici in Italia nell'attuale situazione. Certamente la situazione politica sappiamo è molto frammentata, ma più in generale insomma nella società e quindi anche nella scuola il ruolo dei cattolici qual è? È un punto di domanda che poi quali sono i cattolici, quelli praticanti, quelli così di riferimento ideale, oppure no. Tu da tantissimi anni e ancora per alcuni anni prima della meritata pensione, appunto, nel mondo della scuola di ispirazione cattolica, però anche cittadino comune, evidentemente. E allora partiamo forse dalla domanda più difficile. Essere cattolico nella scuola cattolica è più facile oppure no? Ma sì, effettivamente la domanda è un po' difficilina. Parto da una cosa, cioè io penso che per molti anni si è parlato della scuola cattolica e della scuola di Stato da parte dei cattolici forse in maniera non del tutto corretta, cercando di creare contrapposizione tra scuola cattolica e scuola non cattolica. La contrapposizione non ci deve essere. Venendo alla domanda, è più facile essere cattolico nella scuola cattolica? In un certo senso sì, io dico di sì. Perché? Perché la scuola cattolica si caratterizza per avere un progetto educativo esplicito di ispirazione cristiana, per cui l'essere cattolico dentro la scuola cattolica è più facile perché uno si può manifestare chiaramente, liberamente, esplicitamente cattolico. Inoltre si ritrova anche a collaborare con altri colleghi che fanno riferimento allo stesso progetto educativo e quindi c'è già una consonanza di partenza e questo dovrebbe essere, diciamo, il valore aggiunto della scuola cattolica dal punto di vista educativo. Con questo però non voglio dire che non si possa essere cattolici nella scuola che non è cattolica. Però ecco, l'appartenenza, essere cattolici, l'appartenenza diciamo ideologica e di fede non può essere così esplicita come è nella scuola cattolica. Inoltre l'insegnante cattolico si trova a collaborare con insegnanti che non fanno riferimento esplicito allo stesso progetto educativo, però si può fare riferimento esplicito a una visione antropologica, a un'idea di educazione, eccetera. Però ecco, non è così scontato e non è così facile. Con questo, gli insegnanti cattolici nella scuola non cattolica possono esprimere, sì, possono esprimere il loro essere cattolici, però non è detto che trovino un terreno condiviso. Ecco, questo è la differenza. Magari proprio il terreno non condiviso può essere anche però occasione di confronto ulteriore. Io porto una mia esperienza personale limitata a un solo anno di insegnamento, ma proficua. Ho fatto solo il supplente, quindi ripeto, esperienza limitata nel tempo. Però l'insegnante di religione ho visto nella scuola statale, scuola o comunale, è comunque un punto di riferimento. Sì, inoltre può essere anche occasione di testimonianza molto più forte che non nella scuola cattolica. C'è l'altro aspetto però, ed è il motivo per cui io ho deciso di restare nella scuola cattolica, c'è un aspetto che per conto mio è importante nella scuola cattolica, il fatto che ci sia una certa coerenza di progetto educativo. L'educazione passa attraverso la coerenza degli adulti. Allora, se l'ambiente, se il progetto educativo è orientato e tutti quelli che lavorano per quel progetto educativo sono coerenti col progetto educativo, metto tutti i se perché certo, non è scontato, ecco. Però questo crea un ambiente educativo molto più efficace, o almeno dovrebbe creare un ambiente educativo più efficace, perché finché il ragazzo è nell'età della formazione ha bisogno di un ambiente coerente, altrimenti diventa molto più difficile cogliere i valori che guidano. Se io cattolico ho valori di riferimento che sono la, non so, diciamo la teoria personalista filosofica personalista, un altro ha un riferimento culturale diverso, è chiaro che anche le antropologie sono diverse e quindi i messaggi che si mandano sono diversi. Ecco, quindi dal punto di vista educativo sarebbe più importante che ci fosse un progetto educativo coerente e che tutti quelli che fanno riferimento a quel progetto fossero coerenti col progetto. A prescindere dall'abito, quindi dal fatto che uno abbia il velo da suora o il colletto da prete. A prescindere dall'abito. Con questo non voglio dire che non ci possa essere però progetto educativo coerente anche al di fuori della scuola cattolica, solo che i punti di riferimento possono essere diversi e bisogna concordare i punti di riferimento. Ecco, nella scuola cattolica sono espliciti e sono espliciti già in partenza, a prescindere, diciamo, e quindi tutti sanno che devono adeguarsi a quel progetto educativo, o meglio far riferimento a quel progetto educativo. Prima pausa, ancora insieme tra poco col professor Contessotto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Maledetta me che sto morendo, per un attimo divento, perdo tutto in un momento, è proprio questo, sono stanco di donare confidenza a chi invece non ti pensa e ti abbandona come merda, tanto lui che è forte e regge e non sa cos'è il rancore, se ti va da lì un ceffone, comunque è meglio non chiamare anche se soffre come un cane, è un amico che non vale. Quante notti al caldo, stretti stretti, chiusi in una stanza, senza uscite e pregiudizi, solo con la voglia di star bene e divertirsi, quella che vuoi tu. Posso dimostrare cosa ho dentro e fino in fondo, non mi abbasso a certi schemi, per denaro altri valori, l'importante è che io riesca a stare in piedi anche domani, e non servirà un abbraccio, basti avanza il mio coraggio, e la ferma convinzione che sei il sole e non un raggio, non si sa mai chi sei, se vincenti o perderai. Addosso e farsi male, male veramente, a quello che ti segna e non ti fa capire niente, rende inutili, io non ci sono. Dal mondo della scuola, Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme per questa puntata dal mondo della scuola con Francesco Tessotto, dirigente dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso. Allarghiamo il discorso al di fuori della scuola cattolica per, come si dice in dialetto, tirarci su una costa, sì. Cioè darci un po' anche di spinta positiva. Nei giorni scorsi il ministro Carrozza ha annunciato nuovi finanziamenti, la stabilizzazione di una serie di precari. Dopo, chiaramente non basta questo poi per migliorare la qualità della scuola, ma è certamente un primo passo. Sappiamo, ce l'hanno detto nelle scorse settimane, le indagini, le statistiche europee, questa Bibbia, questa sorta di Bibbia di Vangelo a cui in tanti fanno riferimento, che da quello che risulta da queste statistiche, da questi test, la preparazione media degli studenti italiani è più bassa rispetto all'Europa. Però se guardiamo poi al Veneto, siamo negli standard europei, quindi bisogna guardare anche queste statistiche prendendole con le apposite molle. Per la tua esperienza anche personale di conoscenza dell'estero da insegnante, so che hai avuto delle esperienze anche sorprendenti, in positivo per noi, sì, no? In positivo, sì, sì. Beh, abbiamo alcune... Noi abbiamo avuto abbiamo anche come scuola rapporti con alcune scuole straniere con le quali ci incontriamo periodicamente e facciamo un po' il punto. Inoltre, da alcuni anni facciamo degli scambi di studenti, scambi non solo di una settimana, scambi di mesi, per cui non so, attualmente tre nostri studenti stanno frequentando una scuola austriaca, da dicembre ospiteremo quattro studenti austriaci nella nostra scuola, l'abbiamo fatto anni scorsi, e poi abbiamo anche esperienze al di là dei rapporti diretti che abbiamo con le scuole tramite associazioni che curano lo scambio, per cui abbiamo ospitato studenti stranieri e i nostri studenti sono andati a frequentare scuole straniere. Questo, fatto questo quadro per dire che abbiamo la possibilità di constatare direttamente al di là delle statistiche nazionali. O dei si dice. Allora, proprio per tirarci su una costa, come dicevi, dobbiamo dire che la preparazione dei nostri ragazzi non è così scadente come appare rispetto alle statistiche, cioè le statistiche ci fanno rabbrividire. Allora abbiamo la Finlandia che è i primi posti, cioè noi ci troviamo a livello di terzo mondo dal punto di vista culturale. Allora è vero, cioè dobbiamo dire, è vero che per alcuni aspetti la preparazione a livello culturale dei nostri studenti, se non stiamo attenti, sta scadendo. Per esempio il modo di comunicare è sempre più approssimativo. Parliamo di lingua di proprio. Lingua, sì, lingua, ma lingua madre, non lingua inglese, lingua madre, cioè il modo di comunicare è sempre più approssimativo. Non c'è più l'attenzione e la pazienza, per esempio, nell'impostazione di problemi dal punto di vista di matematica, eccetera. Cioè, ci sono dei punti su cui andare a lavorare e bisogna lavorarci. Però complessivamente i nostri studenti italiani non sfigurano rispetto agli studenti stranieri. E per esempio abbiamo avuto l'esperienza di un nostro alunno che ha frequentato per tre mesi una scuola finlandese. Finlandia è, se non la prima, il top. Quando si dice la scuola ai massimi livelli si parla della Finlandia. Ecco, un nostro alunno che ha frequentato per tre mesi una scuola finlandese era tra, diciamo, usiamo sto termine, tra i primi della classe, cioè sicuramente non sfigurava. Nonostante non avesse la padronanza della lingua finlandese, comunicava in inglese, eccetera, comunque era tra quelli che se la cavavano meglio. E invece qui in Italia com'era? Qui in Italia era nella media, insomma non era tra i più scadenti, ecco. Era nella media, ma neanche sicuramente non era il top dei top. Ecco. Ma altri nostri studenti che hanno frequentato scuole americane, australiane, eccetera, risultano essere bravi, bravi, e addirittura di lasciare una buona impressione. Vediamo studenti stranieri che vengono nella nostra scuola, alcuni bene, altri mediamente, qualcuno ha delle difficoltà, ma difficoltà nelle materie che classicamente sarebbero le più deboli per noi, non so, per dire la matematica. Quindi non è proprio dalla prova dei fatti, non è che ci sia questo grande divario tra noi e gli studenti stranieri. Ma perché questo nelle statistiche non viene fuori? Nelle statistiche non viene fuori perché il nostro modo di insegnamento è ancora, diciamo, un po' ottocentesco, nel senso che noi continuiamo a insegnare molte nozioni, le applicazioni dopo aver imparato le nozioni, eccetera, eccetera. E il nostro modo di verificare i ragazzi è ancora un modo di un certo tipo. Noi non siamo molto propensi ai test, ai quiz, alle crocette, eccetera, anche se ci stiamo adeguando. Ma i paesi che da più tempo, da decenni, hanno esercitato i ragazzi con i quiz sono avvantaggiati nel momento in cui l'Europa o la comunità internazionale impone dei quiz per valutare. Perché per rispondere correttamente ai quiz molto spesso ci vuole anche un buon addestramento più che cultura. Allora, io non dico che siamo ai livelli della patente per cui uno si impara a memoria i quiz e si prende la patente senza saper guidare, non è proprio così. Però se uno è più addestrato ai quiz, sa gestire meglio i tempi, dà le risposte, è più disinvolto nel dare le risposte, eccetera, e quindi i nostri che sono meno abituati ai quiz sono svantaggiati, anche se dobbiamo dire che stiamo recuperando. Per esempio, tu dicevi prima che il Veneto si trova a livelli superiori di altre regioni. Da alcuni anni l'INVALSI, che è l'Istituto Nazionale di Valutazione, sottopone dei quiz ai ragazzi, per esempio quelli di terza media. Il test INVALSI è uno delle prove d'esame. Ecco, da quei test risulta, perché dopo i risultati vengono resi noti e si dà il risultato medio italiano, poi per parte Italia centrale, eccetera, poi per porzioni ulteriori. Ecco, il nord-est è a livello dei paesi nordici come risultati, quindi vuol dire che non è così scadente il risultato. Certo, è vero che a differenza dei paesi stranieri, l'Italia, come usava il Censis dire una volta, è a macchia di leopardo, cioè ci sono zone di alta produttività scolastica e zone di bassissima produttività scolastica, e quel gap va migliorato. Dopo c'è anche da dire che forse in Italia dobbiamo fare un passo ulteriore sulla metodologia, cioè io ho visto che sia in Germania, per esempio in Finlandia, paesi che ho visitato direttamente, in Austria, il metodo è molto più coinvolgente, cioè i ragazzi si sentono molto più protagonisti, per cui sono anche molto più motivati. La struttura scolastica è diversa, cioè i ragazzi sono a scuola tutto il giorno, però hanno dei buchi di orario alla maniera universitaria, per cui alternano. Cioè, mentre i nostri ragazzi, mentre sono a scuola, sono sotto pressione continuamente, lì invece all'estero hanno l'opportunità di respirare un po', cioè anche i ritmi sono diversi, però ecco, comprendono una maggiore porzione di... Da noi oggi dire ai ragazzi di stare a scuola tutto il giorno, per esempio le superiori, è una bestemmia, cioè nessuno lo accetterebbe mai. All'estero è normale, però in questa maniera i ragazzi diluiscono, non so, le 5 ore di lezione, le diluiscono in 8 ore di presenza scolastica e quindi hanno dei momenti di respiro, eccetera. E anche un'efficienza maggiore. Allora, facciamo un'ultima pausa e poi ripartiamo proprio da questo. Dal mondo della scuola. You don't seem to know that I everything's the same. And I let myself believe things are gonna change. When you kiss my mouth and you hold my body close, do you wonder who's inside? Maybe there's no way we could feel each other's pain. Ultimi minuti insieme al professor Conte Sotto per questa puntata dal mondo della scuola, in cui stiamo spaziando anche nei confronti a livello europeo. Prima dicevi la nostra scuola certamente dà anche risultati di qualità, lo si vede nell'esperienza degli studenti all'estero. Dovrebbe forse un po' cambiare metodologia che prima hai definito un po' ottocentesca, no? Sì, mi viene in mente il libro cuore, ecco, tanto sì, per avere, ecco, non siamo a quei non livelli, siamo a quei livelli però, lì, però sì. Abbiamo una struttura forse molto rigida, un po' più elastica sia per gli insegnanti che per gli studenti da altre parti. Ecco, per esempio, una novità che aveva cercato di introdurre il ministro Berlinguer e che dopo per motivi economici non è andata avanti era quella dell'opzionalità. L'opzionalità, cioè dire ci sono alcune materie, lo zoccolo duro della preparazione, italiano, filosofia, matematica, eccetera, che sono fondamentali. Come l'università. Come l'università. Degli esami obbligatori. E dopo gli alunni hanno la possibilità di completare, per cui c'è un piano orario che può essere molto snello o anche molto ricco a seconda. Io vedo in porto l'esempio della Germania perché è l'ultimo paese che ho visitato. In Germania ci sono delle classi frequentate da una trentina di allievi, perché sono quelle di lingua tedesca, di matematica, cioè delle materie fondamentali, e dopo di gruppi classe di 5, 4, 8, 10 alunni, che sono i gruppi di classe opzionali. Ecco, certo che vengono a costare molto, però in questa maniera gli alunni si costruiscono il loro percorso e possono essere più motivati. Dopo però c'è lo sbarramento, cioè se tu non hai fatto certe materie non puoi iscriverti a certe facoltà universitarie, e questo diventa problematico ai fini proprio dell'orientamento, eccetera. Cioè, è una struttura diversa. Io non lo so se quel sistema sia migliore del nostro. Certo che bisogna avere il coraggio di confrontarsi con sistemi diversi. E i tedeschi hanno tutti il computer in classe? No. Ecco, qui c'è un mito degli ultimi anni della digitalizzazione della scuola, come se avere la LIM, avere il computer, tutti i ragazzi col tablet, il wifi a scuola fosse la soluzione dei problemi. Per carità, dà delle opportunità anche dal punto di vista della didattica notevoli, se le si sanno sfruttare. Dopo bisogna vedere se le si sanno sfruttare, comunque dà delle opportunità, però non è detto che quello sia il miglioramento assoluto della scuola. Noi abbiamo camminato molto sulla modernizzazione in questo senso, però siamo rimasti indietro sulle cose che per conto mio sono più importanti, che sono l'organizzazione scolastica. Bisognerebbe avere il coraggio di confrontarsi demolendo alcuni luoghi comuni, per esempio l'organizzazione della giornata scolastica, l'organizzazione del servizio degli insegnanti. Ecco, per esempio noi siamo abituati a ragionare per gli insegnanti con l'orario di insegnamento, cioè quante ore insegni in una settimana. Bisognerebbe per conto mio avere il coraggio di cominciare a ragionare sull'orario di servizio, cioè quante ore sei presente a scuola, di insegnamento e non insegnamento. Per l'organizzazione dei ragazzi, per esempio, ho visto che all'estero, sia in Austria, sia in Germania, sia in Finlandia, sia nei paesi anglosassoni, ci sono le cosiddette ore buche a livello come all'università, e i ragazzi, quando non sono a scuola, hanno degli spazi all'interno della scuola, quando non hanno lezione, che può essere la biblioteca o altri spazi, in cui studiano, chiacchierano, giocano a carte. C'è un'assistenza molto blanda. Noi per esempio siamo lì sempre col fiato sul collo, i carabinieri. Assistenza molto blanda. Ripeto, non so se questa sia la soluzione, però avere il coraggio di confrontarsi con soluzioni diverse, magari questo potrebbe essere utile. E nei confronti degli insegnanti anche con degli stipendi europei, perché mediamente sappiamo che gli stipendi dei vostri colleghi all'estero sono più alti, per diverse ragioni. Notevolmente più alti, e sono più alti anche perché c'è una considerazione sociale molto più elevata dell'insegnante. Noi abbiamo l'idea che se uno non sa fare, non riesce a trovare posto da impiegato, non riesce a trovare posto come qua, di là, su e giù, alla fine ambisce al posto fisso in un ente pubblico. Se non ci riesce, alla fine andrà a fare l'insegnante, come se fosse una cosa di ripiego. E questo lo si vede per esempio dal numero di partecipanti i concorsi per l'insegnamento, che penso sia un numero esageratissimo. Faccio un esempio così, superiore ai concorsi per carabiniere, per esempio. Quindi vuol dire che si pensa che fare l'insegnante sia più facile che fare il carabiniero o fare qualsiasi altra professione, perché se lo misuro da quello, ecco. Mi dicevano il mio collega della scuola Germania che loro vanno alla ricerca degli insegnanti, perché non c'è un'offerta così ampia. Perché? Perché c'è la consapevolezza che per arrivare insegnante devo fare un percorso che non è un percorso facile, però chi arriva alla conclusione del percorso viene considerato sia socialmente sia economicamente. E di conseguenza appunto retribuito in maniera. Sì. Per dare una misura, più o meno il doppio? Più del doppio di stipendio, sì. Anche in paesi dove magari il costo della vita è sostanzialmente analogo al nostro. Allora, gli spunti ne abbiamo dati, magari avremo modo di ritornarci su alcuni in altre occasioni del nostro percorso. Che dire, buon lavoro e buona continuazione di anno scolastico. Grazie. Professor Contessotto. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.